Italia in controluce. Siete collegati con Radio 24, in particolare con questo programma quotidiano che potete ascoltare alle 6.30 e alle 13.30 in studio. Daniele Biacchessi. Un libro sulle mafie e sulle antimafie, scritto da un collega, un bravo collega che conoscete, cioè Roberto Galullo. Di questo parla la puntata odierna di Italia in controluce. Si intitola Vicini di mafia ed è l'ultimo libro scritto da Roberto Galullo, sottotitolo Storie di società ed economie criminali della Porta Accanto, pubblicato del Sole 24 Ore. Roberto, tu sei tra l'altro una voce nota di Radio 24. Questo è un libro in cui fai vedere che la mafia non appartiene solo ad alcune regioni del sud, ma la mafia si è infiltrata ormai da tempo nelle regioni del centro-nord, cosa che spesso la gente fa fatica a comprendere. Quando è avvenuto questo salto, diciamo, della mafia? Ma questo libro va nel proseguimento logico del precedente, uscito sempre con il Sole 24 Ore lo scorso anno, Economia Criminale, in cui cominciai a mettere sotto la lente le regioni del centro-nord, perché sembra quasi che la mafia al nord si sia scoperta negli ultimi anni. Così invece non è assolutamente. Ed è opportuna quindi la tua domanda su quando è avvenuto questo salto. Per quanto possa sembrare paradossale, questo salto è avvenuto circa 40 anni fa, perché circa 40 anni fa le famiglie mafiose capirono che il territorio, i nuovi territori, le nuove aree di pascolo, chiamiamole così con un termine magari non propriamente fine, ma rende l'idea, sarebbero state proprio le regioni del nord. Ad aiutare moltissimo questa emigrazione delle mafie al nord ha aiutato il maledetto, lasciatemelo dire, confino, vale a dire quelle aree esterne ed estranee alle regioni del sud, nelle quali furono mandati moltissimi personaggi legati alla malavita con l'intento di allontanarli dai paesi nativi. In realtà poi hanno creato nei luoghi dove c'erano una nuova rete criminale. Questo lo dicono tutti gli esperti, non ce n'è uno solo che vada in contraddizione. Là dove sono giunti hanno purtroppo fatto proseliti. Ed ecco quindi che questo salto avvenuto circa 40 anni fa ha poi continuato ad alimentarsi. Nel tuo libro scrivi per esempio che la malavita non parla tedesco ma riesce a scalare Tirolo e Trentino. Che cosa accade in queste regioni? Allora, proprio poco prima di consegnare il volume ebbi un colloquio con un magistrato antimafia che da anni segue come esperto proprio le due province autonome di Trento e Bolzano, e gli chiesi se c'erano delle novità sulla penetrazione delle mafie in queste due province autonome. Mi disse no. Guarda, sostanzialmente la presenza delle mafie è legata al contrabbando, al traffico di armi, essendo una zona di confine. Nemmeno a farla apposta, dopo pochi giorni e poco prima di consegnare le bozze del volume, un'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, dai ROS della Guardia di Finanza di Padova, hanno scoperto che un'organizzazione criminale legata in qualche modo ai clan dei Casalesi, dobbiamo sempre dire che si tratta di presunzioni fino a che non ci saranno poi anche dei processi, quindi bisognerà sempre attendere i gradi di giudizio, questa presunta rete legata ai Casalesi era entrato pian piano anche nella provincia di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano, rilevando alcune quote societarie dapprima e poi rilevando intere imprese commerciali in queste due province autonome. Nel tuo libro fai riferimento anche all'Abruzzo, quindi una zona terremotata. Quando bisogna ricostruire un territorio, ovviamente questo fa gola alla criminalità organizzata. Guarda, ho scoperto una cosa davvero dolorosa, vale a dire una conferma di ciò che sospettavo, che il terremoto è un'occasione imperdibile per le mafie per entrare o per rafforzare la propria presenza. Il dramma è che poi non se ne vanno più una volta entrate. Guarda che la storia del terremoto è esattamente quella che si è già verificata nelle Marche e in Umbria. Anche lì le imprese criminali dell'edilizia del ciclo del cemento sono entrate e non se ne sono più andate. Io ho drammaticamente scoperto che la stessa cosa è accaduta in Abruzzo, ma non tanto e non solo con quelle famose risate sulle macerie di cui ricordiamo, della famosa cricca che oltretutto con la mafia nulla a che fare, si trattava semplicemente di presunti affari illeciti che sarebbero stati, o presunti affari che sarebbero stati coltivati dopo il terremoto, ma ho scoperto proprio che poco dopo il terremoto alcune imprese legate all'Andrangheta godevano di questo fatto e quindi non soltanto erano pronte ma si erano proprio già attrezzate per salire in Abruzzo, dove avevano referenti, luoghi in cui soggiornare, compiacenti professionisti che erano pronti a creare delle false società. Guarda, lo dico onestamente, non credevo che l'Abruzzo fosse una terra così pervasa dalle mafie. Anche recentemente sono state sequestrate prima e dissequestrate poi, ma comunque ci sono delle indagini in corso, alcune attività commerciali nel centro di Pescara legate questa volta, anziché all'Andrangheta, alla Sacra Corona Unita. Ma la gente del posto, non so, in Abruzzo ma anche in Trentino, ha la percezione di come la mafia abbia in qualche modo inquinato il loro territorio? Guarda, assolutamente no, per un motivo molto semplice, anzi diversi motivi, ma ne voglio citare uno innanzitutto. Al nord soprattutto non ci sono ancora gli anticorpi necessari per capire che le mafie hanno penetrato oramai tutti i livelli produttivi, economici e sociali. Mentre al sud questi anticorpi con gli anni si sono formati, al nord purtroppo la questione è lenta, quindi c'è una presa di coscienza, una consapevolezza, ma non così veloce come dovrebbe essere. Ti faccio un altro esempio: questo libro contiene due capitoli molto ampi, uno a Roma, la capitale, e una a Lazio. In realtà Roma e Lazio meriterebbero un libro a parte, non è detto che non lo farò, ma la cosa sorprendente è che ancora pochi giorni fa il sindaco di Roma Gianni Alemanno diceva che, come se fosse improvvisamente caduto da Marte, paracadutato da un pianeta alieno, scopre che le mafie a Roma ci sono. Ma dobbiamo ricordare che a Roma le mafie non solo ci sono sempre state, non solo si spartiscono gli affari e trovano accordi, ma addirittura vivono in amore e accordi, salvo poi momenti cruciali, ovviamente cruenti, in cui si fanno la guerra, con le mafie straniere. Quindi non solo non c'è la consapevolezza nella società, ma addirittura continuano ad esserci politici che, anziché anticipare i fenomeni e leggerli nel momento in cui questi insorgono, dopo, molto tempo dopo, si stupiscono dei fenomeni stessi. Beh, è un po' un'ingenuità pensare che Roma, che comunque è la capitale politica, sia in qualche modo esente dalla criminalità organizzata. Guarda, è colto nel segno. È ingenuo, è proprio per fare, come dire, per rimanere nello spazio giusto e doveroso dell'educazione. Ma non si può assolutamente pensare che la capitale della vita politica italiana non sia una calamita irresistibile per le mafie nazionali e internazionali, e per una mafia anche indigena, perché la banda della Magliana, ricordiamolo, che operava a Roma anni fa, era una vera e propria organizzazione mafiosa, e pochi sanno che era la banda della Magliana che dettava le regole alle mafie, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, che in quel momento, non dico che si affacciavano, ma comunque volevano entrare a Roma, insomma, ancora di più di quanto già non fossero entrate. Quindi la presenza di Roma è una presenza anche con una forza criminale molto forte, ma proprio del territorio. Un'ultima nota su un'altra regione: tu parli anche delle infiltrazioni mafiose in Toscana, che cosa accade qui? Guarda, qui la situazione è particolare, perché è soprattutto il mondo del turismo, il mondo del commercio che ruota intorno al turismo, il mondo della cosiddetta movida, i locali notturni e i locali, diciamo così, più alla moda, che sono nel mirino delle mafie, soprattutto i casalesi. Ed un'altra particolarità propria della Toscana è il fatto di attirare anche il riciclaggio russo, il riciclaggio cinese nel settore alberghiero. C'è una città in particolare di cui parlo in questo libro, Montecatini, che è abbastanza nel mirino delle mafie. Grazie a Roberto Galullo, autore di Vicini di Mafia, storie di società ed economie criminali della Porta Accanto, pubblicato dal Sole 24 Ore. Vi ricordiamo che questo libro sarà in edicola con il Sole 24 Ore fino al 15 dicembre. Poi da gennaio lo troverete anche normalmente in libreria. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Ringrazio Alessandra Tedesco per l'intervista a Roberto Galullo. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.